Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Bretagna con Emilia Bersabea Cirillo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dove si va oggi? Visto che il caldo dell'estate è ormai arrivato, mi piacerebbe tanto potermi rinfrescare un po'. E lo faccio facendomi portare dalla mia accompagnatrice di oggi, Emilia Bersabea Cirillo, sull'Oceano Atlantico, tra i colori e il vento della Bretagna. Nome Bretagna, capoluogo René, stato Francia. Confini. Il territorio della regione confina con quello della Bassa Normandia a nord-est e dei paesi della Loira a sud-est. Le coste meridionali e occidentali sono bagnate dall'Oceano Atlantico, quelle settentrionali dal Canale della Manica, quelle occidentali dal Mare di Rouen. Abitanti. La popolazione è di circa 3 milioni di abitanti detti bretoni per la regione amministrativa, di circa 4 milioni di abitanti per la regione storica. Clima. Il clima della Bretagna è influenzato in maniera molto consistente dall'Oceano Atlantico, con le sue correnti, i venti occidentali e le veloci perturbazioni in arrivo dal continente artico e nordamericano. Tutto questo determina una gran quantità di precipitazioni e temperature miti durante tutto l'arco dell'anno, nonostante l'elevata latitudine. Lingua. La Bretagna è composta storicamente da due aree linguistiche, la Bretagna inferiore, a ovest, anche chiamata Bretagna tonante per il rumore che fa la lingua bretone secondo i francesi dove si parla la lingua bretone, la Bretagna superiore a est dove si parla una lingua neolatina del gruppo d'Oïl chiamata Gallo. Come molte lingue regionali in Francia, l'uso del bretone è diminuito moltissimo a vantaggio del francese, soprattutto durante il XX secolo. Il bretone tuttavia si è risvegliato negli anni 70 grazie anche all'istituzione di scuole bilingui. Attualmente ci sono circa 200.000 persone che parlano la lingua bretone. Ogni volta che sento la parola bretone, mi viene in mente una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù. In realtà, a spingerci da queste parti non è un centro di gravità permanente, almeno non quello cantato da Battiato, ma semmai quello di un libro. Perché io sono stata in Bretagna 10 anni fa ed era un periodo molto felice della mia vita, perché i miei figli non erano ancora cresciuti e quindi avevamo ancora il piacere di stare tutti quanti insieme e abbiamo fatto questo viaggio un po' così all'avventura. Io mi sono studiata delle mappe e ho detto voglio andare in Bretagna perché avevo letto un libro molto bello che si chiama Possessione di Antonia Bight, che a un certo punto racconta di queste sirene, di queste storie che accadevano in Bretagna. Queste cose sono ed erano lì, un giardino e l'albero, il serpente alle sue radici, il frutto dorato, la donna all'ombra dei rami, l'acqua che scorre nello spazio erboso. Essi sono ed erano lì. Elle, très fière, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Beh, farsi portare in Bretagna da un libro dal titolo così carico di significato come Possessione è una garanzia per rimanere poi ammaliati da questi luoghi e dalla sua gente, da donne e giardini, da acqua e serpenti, da tutte quelle cose che erano e sono lì, da cose passate che sembrano avere un eco dentro di noi, come prosegue Emilia. E così sono andata, siamo arrivati a Audierne. E questo però è, diciamo, la parte finale dove appunto lei ambienta un pezzo di Possessione, ma quello che io ho cominciato a vedere è stato intanto questo paesaggio selvaggio, primitivo, ma anche pieno di cose passate. C'era quest'erica che stava un po' dappertutto, questo vento che ti trasportava. Io vengo da una provincia che ha molte affinità poi alla fine con la Bretagna, perché io vengo dall'Irpinia. E per esempio ho notato che in Bretagna all'ingresso dei paesi ci sono sempre delle croci che sono poi circoscritte in un cerchio, così anche da noi, perché comunque in Irpinia ci sono paesi che quando si arriva c'è questo strano cerchio in cui c'è poi dentro una croce. Sicuramente ci sono dei rapporti, no, tra i normanni, i bretoni e quello che sarà stato le invasioni, non lo so, mi sono fatta questo sogno, voglio pensare che sono nata pure io da quelle parti, anche perché il paese di mia mamma è un paese dove c'era un vecchio castello normanno, dove ci stanno un sacco di normanni, dove tutti hanno i capelli rossi, gli occhi azzurri, insomma ho fatto questo sogno che io sono bretone e normanna. Quante volte succede di cercare in un altro paese o in un altro popolo un po' di noi? Forse è un modo di creare una specie di continuità affettiva che contrasti l'estraneità dovuta allo spostamento. O forse è solo perché ognuno porta dentro una propria idea singolare di spazio e lo ricostruisce di volta in volta attraverso tutti quelli che incontra in una vita. E poi siamo andati a vedere un posto bellissimo che si chiama Plumanac. Plumanac, ovvero la costa di granito rosa, ed era un posto dove sembrava veramente di vivere, cioè non lo so, un posto particolare. C'era scritto anche che Plumanac, c'era questo grande cartello perché questa è una riserva, e c'era scritto Plumanac è vittima del suo fascino, tenetela pulita e conservatela. Ed è stata la prima volta che ho letto un cartello dello Stato che diceva che un posto era vittima della sua bellezza. In effetti quanti posti in Italia sono vittime, tipo la costiera amalfitana o anche la Sardegna, o diciamo l'Italia è molto bella, è tutta bella, ed è diventa, questi luoghi diventano vittime di essere depredate, di un turismo molto così, molto di massa. Invece in Bretagna io ho notato un grande rispetto per questi posti. J'ai rencontré ce matin devant l'arrêt de mon champ une troupe de marins d'ouvriers paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche chermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche chermine, vive Fougères et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Bretagna con Emilia Bersabea Cirillo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Oceano Atlantico. Un libro dal titolo importante come Possessione ha fatto da stimolo ad Emilia Bersabeo Cirillo per andare a visitare la Bretagna e le sue storie, i suoi paesaggi primitivi e il suo vento che rinfresca anima e corpo. E io la sto seguendo in questo ricordo di viaggio a ritroso che segue un flusso emotivo. E poi ci sono le maree. In Bretagna il fatto che c'è la marea è un'altra cosa miracolosa. I miei figli erano impazziti quando andammo a vedere Mont Saint-Michel, perché all'improvviso c'era questa marea che si ritirava, i cavalli che camminavano su questa sabbia, le conchiglie che si infilavano sotto i piedi, la gente che camminava a piedi scalzi, e intanto da sopra il castello di Mont Saint-Michel si vedevano tutte queste scene che sembravano, che ne so, un film. Come le maree, anche le suggestioni di Emilia arrivano e poi scompaiono, lasciando sotto ai miei piedi la sabbia dove proseguire il mio cammino. Una sabbia densa di sensazioni, alla quale cerco di adattare la mia andatura per non perdermi nulla. E questa è stata una cosa molto bella. Noi non siamo assolutamente abituati alle maree, non siamo abituati a questo cambiamento di luogo in pochissimi minuti, non siamo abituati a una vita che si trasforma e si deve adattare a un luogo così fortemente. Tutte le mattine c'è una specie di calendarietto in cui si dice quest'ora la marea sale, quest'ora la marea scende, no? Allora tu tutta la tua vita la devi anche un po' adattare, non al treno, alla metropolitana, a quello che noi usiamo, ma alla marea, che è un fatto proprio naturale che non leverà mai nessuno dal mondo. E allora di fronte a questo tu ti arrendi e dici, insomma, questo è veramente un posto magico, un posto, ma più che magico, un posto indimenticabile, almeno nel mio cuore è così, è indimenticabile. Adattarsi alle maree anziché al treno, questo è indimenticabile per forza. Ma Emilia mi confessa, da donna a donna, che c'è un'altra cosa decisamente indimenticabile. E poi dobbiamo spendere qualche parola sugli uomini bretoni, che sono bellissimi, altissimi, non levissimi, ma molto azzurrissimi, hanno questi occhi, insomma, sembrano dei guerrieri, no? E io rimanevo, perché noi, insomma, non avevo idea di come potessero essere questi omaccioni, e ho pensato ancora una volta a questi uomini che sono discesi nella nostra terra, che poi è stato il sud Italia, no? Occhi da guerrieri coi colori dei principi. Un connubio da fare accapponare la pelle, diciamolo. L'immagine della vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù di battiato è subito soppiantata da quella del giovane bretone con elmo e spada. Come non lasciarsi conquistare? La tige fine qui s'incline, les agents de la roche berma. Beauté prise dans un regard, par chance et aussi par vouloir, je dors en Bretagne ce soir. Quanta storia nei ricordi della Cirillo. Storia reale e storia inventata, ma sempre storia di eroiche gesta. La geografia così magica di questo posto ha certamente influenzato gli eventi che l'hanno attraversata. Quando poi è una grande massa d'acqua come l'oceano a farla da padrone, capita spesso che la natura entri prepotente nella vita degli uomini. Poi siamo andati a vedere un paese dove girano i film del Medioevo, che si chiama L'Ocronan, dove hanno girato i Tre Moschettieri. Quindi i miei figli erano felicissimi di vedere questo paese che è ancora allo stato medievale. E poi c'è questo Dierne, che è il posto da cui bisogna partire per vedere Pointe-du-Raz, che è un posto ai confini di tutto. Là c'è questa baia dei trapassati, baia dei trapassé, dove sicuramente è perché molte navi si infrangevano su queste coste, questo vento che ci ha portato proprio queste piogge improvvise. Tu arrivi che c'è un sole e dici, beh, faccio una passeggiata, e mentre passeggi arriva un vento che è, come dire, a 45 gradi, no? Che ti spacca proprio, e però ti bagni solo da un lato, dall'altro lato rimani asciutto. E noi siamo andati in giro con questo vento, ma non lo so, io ho pensato a Cime Tempestose, a tutta una serie di libri, no, che avevo letto nel passato e che mi erano piaciuti molto. Ancora libri a fare da guida, anche se solo per singole sensazioni come questa del vento. Ma sono spesso le parole degli scrittori che ci aiutano a ricreare nell'immaginazione un luogo ideale che poi andiamo a cercare anche fuori di noi. Insomma, è un posto dove si sente fortemente la natura, ma si sente proprio qualcosa dentro che parla, e bisogna solo stare un po' attenti a così ad ascoltarlo. E insomma, io penso che la Bretagna sia un posto, speriamo, che resti molto ancora com'è, perché per fortuna, insomma, è rimasto ai confini. Rimanere ai confini ha i suoi buoni lati, certo. Forse è anche un modo per non essere vittime della propria bellezza, come diceva prima la mia compagna di viaggio, e soprattutto permette alle tradizioni di non spegnersi. Si parla una lingua che è stata per un periodo dimenticata, che è il bretone, che è una lingua un po' gaelica, anzi molto gaelica. C'ha una serie di K, X, Y per dentro, ogni nome, ogni città ha questo doppio nome, e mi sembrava un po', insomma, di arrivare, lo so che non faccio un piacere ai bretoni a raccontarlo, però insomma, quando siamo andati in Veneto all'inizio della Lega, che ci aveva messo i due nomi, no? Poi il nome italiano e il nome veneto, mi sembrava un po' di... però insomma, il bretone è tutta un'altra cosa. Compagni di viaggio. viaggio. In Bretagna con Emilia Bersabea Cirillo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono nel nord-ovest della Francia, in un luogo che è molto più simile alla vicina Inghilterra per paesaggio, tradizione e storia che alla nazione cui appartiene dal 1532. È la Bretagna. Sono arrivata tra il suo vento, le sue maree e i suoi colori con Emilia Bersabea Cirillo. Le immagini evocate sin qui sono state degne di un titolo come questo. E probabilmente anche i vari artisti che nella storia si sono fatti stregare da questa sua natura così preponderante hanno provato un senso di possessione nei confronti delle bellezze di questi luoghi. E in quelle zone ha vissuto il mio pittore preferito, che è Matisse. E insomma, aver visto queste cose in un secolo in cui tutto quello che ho visto io non c'era, chissà che cosa avrà visto di dune, di pietre, di colori, di erbe, di case, di, che ne so, di sidro, chissà che cosa avranno, cioè tutto questo mi ha molto affascinato, perché a me piacciono molto poi i posti dove c'è poca vita umana, molta vita così di, così un po' i posti brutali, un po' i posti bruti. La vita che scorre in ogni sfumatura di luce che veste la Bretagna. La vita che anima pietre, dune e case e che si fa intrappolare da Matisse, da Gauguin, da Van Gogh e da Picasso, solo per dirne alcuni. La vita che si mescola alla fantasia e dà origine alle leggende che ispirano e accompagnano gli uomini. Anche questo è la Bretagna. Per cui la consiglio molto, questa consiglio molto la Bretagna, che poi è fatta anche, cioè questo pezzo che si chiama la Costa d'Armor, cioè tutto il mare, e poi c'è dentro questa Bretagna magica che è la Bretagna di Mago Merlino e di questo ciclo bretone di Re Artù, per cui insomma c'è questi boschi dentro in cui ti perdi. E io, pensando a questo, ho scritto appunto un racconto che si chiama Océane, ed è la storia di una specie di magia a cui una ragazza viene così incautamente, si sottopone alla magia di questo posto, di quest'uomo che sta in Bretagna. Succedono tante cose e insomma è un racconto a cui sono molto affezionata, perché mentre lo scrivevo mi ricordavo di questi posti che avevo visto e soprattutto di questi colori. Anche l'arte di Emilia si è fatta stregare da questi luoghi e dalla magia di Mago Merlino e Re Artù. Del resto, chi può dirsi immune dal fascino di Excalibur? Ah, poi c'è anche un'altra cosa da raccontare, che in Bretagna c'è un'isola che si chiama l'isola di Breà, dove andando in giro tu vedi che ci sono le palme. Ci sono sì le palme, oppure queste, perché lì c'è uno strano microclima, no? La corrente, il golfo, queste cose, per cui si sente molto, sembra che stai nel centro del Mediterraneo, invece stai nel centro dell'oceano, che è un mare completamente diverso da quello nostro. Il Mediterraneo è un mare fesso, se lo compariamo all'oceano, cioè alla forza proprio che sprigiona l'oceano, la forza del vento, delle onde, non sono assolutamente quelle del Mediterraneo. Per cui poi pensavano ai pirati, a quelli che erano partiti, insomma c'è tutto. Du on du on dar mani i es au vergeren di du on dar mani i es au vergeren du on dar mani i es au vergeren o vergeren i quarni de venni la raio sona. La forza dell'Oceano Atlantico che non si può paragonare al Mar Mediterraneo, un mare fesso, come l'ha chiamato Emilia. Beh, le immagini si susseguono vorticose in questa terra, tra pirati e corsari, leggende e miti. Anche i bambini si trovano a loro agio. È un posto dove sicuramente i bambini, i miei figli, rimasero colpiti, anche perché ci sta a Saint-Malo, c'è cioè questa storia dei pirati, che i corsari, questi uomini che insomma affrontavano il mare, affrontavano anche le navi, insomma tutte queste storie di avventura. E poi dentro c'è anche la disperazione, secondo me, no, di vivere in questi posti che erano battuti così atrocemente, levando le favole da mezzo, no? Ma pensiamo a vivere, che cos'era vivere lì, battuti e flagellati continuamente. dal mare e sottoposti poi alle maree, per cui tutto quello che a me è sembrato incredibile, poi non lo so viverlo. Ero sotto un cielo risplendente di stelle, con la luna in mezzo al firmamento in un mare senza sponde. Mai, oh Signore, mi hai turbato come in quella notte in cui, sospeso fra il cielo ed il mare, avevo l'immensità sopra e sotto di me. Viverlo deve essere stato davvero un'altra cosa, come abbiamo appena sentito dal bretone François René de Chateaubriand, il cui stile aleggia ancora sullo scoglio di Saint-Malo. Beh, i bretoni sono simpatici, sono molto orgogliosi della loro razza, no? Questo fatto che parlano continuamente una lingua che non è il francese, questo fatto che hanno delle abitudini diverse, mangiano per esempio, bevono questo kir breton, che è una specie di aperitivo che loro insomma si beve a mezzogiorno o anche la sera. Ed eccoci arrivati a parlare di cibo, come sempre, a un certo punto del viaggio. Sarà che siamo italiani, sarà che la cucina dice molto di un paese. Comunque sia, si finisce sempre per raccontare come e cosa si mangia. Anche se Emilia, giustamente, parte dall'aperitivo. C'era quest'uomo molto, molto bello, con questi occhi azzurrissimi, no? Che una sera, quando abbiamo cenato, siamo ritornati in questo tabacco, lui aveva questo tabacco dove poi succede di tutto. Per esempio questi negozi qua in Italia non ci sono più, i tabac, dove si beve, si fuma, si mangia, si sente la musica, cioè sono quei caffè un po' alla Maigret che noi abbiamo perduto. E questo signore ci vide, che eravamo prima andati da lui a prendere il kir breton, poi andammo a mangiare a fianco, sempre questi pesci che loro cucinano, e quando ci ha visto ritornare ha detto: «Vous avez bien mangé?» E mi è sembrato così, come ha fatto questo qui a ricordarsi di noi? Un po' strano, no? E poi ci ha offerto un liquore digestivo che probabilmente facevano là, questo poi non lo so. Dall'aperitivo al digestivo, senza però fare alcun cenno alle pietanze. Ma non dobbiamo avere fretta, c'è ancora del tempo per sederci a tavola. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Bretagna con Emilia Bersabea Cirillo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ci siamo lasciati con uno dei tanti racconti sulla Bretagna di Emilia Bersabea Cirillo. La differenza con gli altri fatti fin qui è che stavolta si trattava di cibo, e visto che abbiamo già bevuto un kir breton come aperitivo, mi piacerebbe continuare il discorso perché non voglio lasciarmi scappare un bel pranzo. Tanto più che proprio in questa terra si muove l'insaziabile eroe dei fumetti, Obelix. Mi è venuta fame con tutte queste storie di cinghiali. Tanto più che è già passato mezzogiorno. Tanto per citare sempre l'amico fidato del guerriero gallico Asterix, quando l'appetito c'è io mi sento come un re. E allora diamo via al banchetto regale con le cornie bretoni. Io mi ricordo che abbiamo mangiato queste mele renette buonissime, queste torte di mele, ma anche questo far breton, che è un dolce che fanno con le prugne, che ci era piaciuto molto. E poi molte ostriche, molto pesce, insomma queste cose. Io non amo queste cose, non amo le ostriche, non amo i frutti di mare, però mi ricordo che mio marito era impazzito a mangiare queste cose, anzi lui ne ordinava tante perché era un po'... usano molto burro, che non è una cosa che noi nel mezzogiorno usiamo, per cui i gusti sono sempre molto dolciastri, no? Poi ci sono queste galette bretone, sono i dolci che fanno loro, sono questi biscotti pieni di burro sottili che si mettono col tè e che ti fanno ingrassare 100 kg. E poi moltissimo al foie gras, quanto foie gras vuoi, tanto ne trovi lì, perché anzi è anche un po' tragico questo fatto dell'oca che deve essere inchiodata per terra perché deve diventare chiattissima, così loro poi si mangiano questa cosa. Sono cose che io non condivido molto, non che sia animalista, però non è che le condivida molto. E intanto vedo che insomma hanno fatto la fortuna della Francia queste prelibatezze, e poi c'è questo sidro che si beve molto, che è un liquore fatto di mele e molta birra. Questo insomma mi ricordo bene della Bretagna, questa birra e questo liquore di mele, questo vino di mele. Posso lasciare stare il foie gras, ma non il pesce e i frutti di mare. Ed essendo la Bretagna l'unica regione francese a non produrre vino, accompagnerò il tutto con del sidro, o meglio, con le birre locali prodotte nelle brasserie, visto che ce n'è per tutti i gusti, bionde, di frumento, rosse, scure, di grano nero, addirittura all'acqua di mare, molte delle quali non pastorizzate. Un pranzo davvero da re. Pancia piena e voglia di sdraiarmi a respirare un po' della brezza che soffia da queste parti. Chiudo gli occhi e mi sembra di tornare indietro nel tempo, a quei colori e a quella luce ritratti da Van Gogh nel suo quadro Donne Bretoni. Un insieme di donne con queste strane cuffie bianche. Riemergo dal mio torpore e ne parlo con Emilia. Mi dice che anche lei è andata alla ricerca di questi buffi copricapo, che ha scoperto essere più alti in base all'importanza della famiglia di appartenenza. Ne voleva acquistare uno, ma non l'ha trovato. Che altro si può comprare, chiedo? Beh, io ho comprato delle foto che avevano un po' di antico, dove c'erano queste vecchie signore in costume che andavano in bicicletta ed erano molto divertenti. Io ho comprato delle tazze, perché c'è anche una produzione di ceramica bretone, bianca, azzurra, a Quimper, per cui quello insomma quello è bello da avere e da ricordare. E poi bisognerebbe non solo ricordare ma ritrovare, cioè andarci più spesso possibile. Adesso che siamo alla fine del viaggio, le chiedo se i luoghi descritti nel libro che l'ha portata in questo posto magico sono poi i luoghi che ha ritrovato di persona. Sì, io anche a Plumanac ho ritrovato questa strana statua della Madonna che sta nell'acqua e che monta e smonta con le maree. E tutta questa parte della costa, sicuramente sì, è proprio quella che racconta Antonia Bite. Beh, insomma, i libri servono anche a questo, no? A farci incuriosire, a farci partire, a farci ritrovare, anche a deluderci a volte, perché immaginiamo, io ho viaggiato moltissimo leggendo, pochissimo viaggiando, però mi sento di partecipare molto, no? A queste parti, a queste storie. Sicuramente Possessione mi aveva talmente tanto incantato che ho dovuto vedere questo posto, quindi veramente brava, bravissima Antonia Bite, che smuove, no, questi desideri e queste fantasie. Bella l'immagine di viaggiare leggendo. È un po' quello che cerchiamo di fare noi con i nostri compagni di viaggio. Le chiedo per chiudere del suo racconto di cui mi ha accennato all'inizio della nostra chiacchierata. Il racconto è venuto di getto. Perché insomma il ricordo di queste cose era molto forte, è venuto di getto, non ci ho messo molto a scriverlo, e appunto è dedicato all'oceano, è dedicato a queste parole bretoni che io avevo sentito, è dedicato molto a Merlino e alla Fata Morgana, all'incantesimo dell'amore, ma anche al doloroso incantesimo che è l'amore. In questa terra fatta di magia, la terra di Mago Merlino che dice «Il drago è ovunque», il drago è in ogni cosa. Le sue squame brillano nella corteccia degli alberi, il suo ruggire si sente nel vento e la sua forcuta lingua colpisce come il fulmine. Non ci resta che salutarci con un pezzo del film Possessione, tratto dal romanzo che tanta parte ha avuto in questo nostro viaggio in Bretagna. Come possiamo sopportarlo? Ogni giorno ci resta meno tempo. Preferivi non avere nulla? No. Se dovevo incontrare un drago, ringrazio Dio che sia stato tu. Ora Emilia Bersabea Cirillo è in libreria con Una terra spaccata, edizioni San Paolo. Chante ma Bretagne, chante plus fort au mon pays. Tu es rocher après campagne, là où la terre finit.